GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Non solo Totti e Nesta. Questo pare proprio un momento nel quale il rapporto tra gli sportivi italiani e l'azzurro della nazionale sia in crisi profonda, al contrario di quanto capita in Spagna. Ecco cosa succede nel nostro basket, dove tirano venti di sciopero. L'uomo della speranza si chiama Fausto Maifredi. Al presidente della Federbasket spetta l'arduo compito di aprire un tavolo di confronto con la Lega di Serie A e la GIBA, il sindacato dei giocatori. Mancano ormai 2 settimane al raduno della nazionale a Bormio, in vista delle qualificazioni per gli europei del 2009, ma l'intenzione degli azzurri è sempre quella di non presentarsi. Ai giocatori non va giù la convenzione fra il CONI e la federazione sul numero massimo di stranieri per squadra nel prossimo campionato. Gli italiani rischiano di essere una sparuta minoranza, protestano gli atleti di casa nostra. Maifredi ha ricevuto l'incarico dal presidente del CONI Gianni Petrucci, che martedì era al Foro Italico per la presentazione del comitato promotore del Mondiale 2014. È da 8 anni che dedico l'estate alla nazionale e mi dispiacerebbe davvero molto scioperare, si sfoga Gigi Datome di Montepaschi, ma questo è rimasto l'unico modo per farci sentire. Non chiediamo l'impossibile, ma solo che si torni all'accordo di 5 italiani e un passaportato. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di calcio, ci sarà solo Tommaso Rocchi come fuori quota nella nazionale olimpica di Casiraghi ai giochi di Pechino. Lo ha confermato ieri il presidente federale Giancarlo Abete. È stata fatta una bella chiacchierata tra l'allenatore Casiraghi, il suo vice Zola, con il presidente del CONI Giovanni Petrucci, ha spiegato Abete. Questo incontro ha permesso di approfondire i temi legati alla spedizione della nazionale olimpica di calcio alle prossime Olimpiadi di Pechino. Quindi Rocchi, unico fuori quota azzurro. La vittoria ai campionati europei lancia la Spagna al vertice del ranking FIFA che è stato pubblicato ieri. Alle spalle degli iberici sale l'Italia, che guadagna così una posizione. Terzo posto per la Germania, perde 2 posizioni invece il Brasile, che è ora quarto davanti ad Olanda e Argentina. Sempre a proposito dei neocampioni d'Europa, ieri lo sfogo del CT Aragonés. Non accetto si dica che sono io a volermene andare. In realtà è la federazione che non mi vuole più come commissario tecnico, altrimenti non avrebbero contattato un altro mentre ero ancora al lavoro. Dice Aragonés che è in procinto di accettare la proposta di un contratto biennale fattagli dai turchi del Fenerbahce. Lo sostituirà Vicente del Bosque, ex allenatore del Real Madrid. Ma c'è la replica del segretario della Federcalcio spagnola Jorge Pérez. A proposito di Aragonés, è stato lui a dire pubblicamente che voleva lasciare e lo ha ripetuto anche al direttore sportivo Fernando Hierro. Ma parliamo ora di ciclismo perché siamo alla vigilia del Tour de France che partirà sabato e parla Jan Ullrich. Non penso che il Tour possa essere ancora definito la più grande corsa del mondo. Prima al via c'erano i migliori che partivano come favoriti, ma le sorprese erano sempre possibili. Il corridore tedesco, lo ricordiamo, ha messo fine alla sua carriera nel 2007 dopo essere rimasto coinvolto nello scandalo doping dell'Operation Puerto. E c'è un'altra notizia di ciclismo. Secondo il tribunale di Utrecht, la Rabobank, squadra olandese, aveva il diritto di licenziare Michael Rasmussen, ma ha sbagliato a farlo durante il Tour de France 2007. Per questo motivo ha stabilito che il team dovrà versare al ciclista 700.000 euro a titolo di risarcimento, una cifra equivalente a 2 mesi di stipendio più i 400.000 euro che Rasmussen avrebbe ricevuto in caso di vittoria al Tour. Il danese, lo ricordiamo, è stato licenziato in tronco dalla Rabobank nel corso della Grand Boucle 2007 per aver mentito sul luogo in cui si trovava prima della corsa, evitando in questo modo di sottoporsi ai test antidoping. Ed è tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.